davanti, o col pensiero alla metropoli di sabbia e cemento. Qualcuno mi aspetta e vedo il sole nascere e morire prima che sia trascorso un giorno. Preferisco perdermi nel deserto che tra le fiamme di una grande città. Ma che solo brucia, i che non tolgono il respiro e i saguari dispersi nella sabbia sanno di un tempo lontano destinato a non finire mai. Io preferisco perdermi nel deserto che tra le fiamme di una grande città. Io preferisco perdermi nel deserto città. Di notte il deserto non ha ombre, ma solo l'eco dei coyote che gridano alla luna. Tra una città e l'altra, lo spazio senza orizzonti è una strada che sembra non finire mai, che solca questa infinità. Tanti e li porta via con sé. Io preferisco perdermi nel deserto che tra le fiamme di una grande città. Io preferisco perdermi nel deserto che tra le fiamme di una grande città. Giacomo dall'Arizona in piazza Castello. Giacomo dipinge con la voce ciò che ha visto in quel paese dove serve il passaporto. Dietro le quinte di un filmato fin troppo corto, riprendi la tua voglia di giocare con la cuffia. Il fuoritempo resta mentre il vento soffia, imprevedibile, trattieni il fiato. Un passo ancora e siamo sul palco e ciò che è stato è stato. Preferisco perdermi